Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri che sono legati non solo dal fatto di essere dello stesso editore, l'editore Rubettino, ma anche dal fatto di parlare dell'idea liberale, ma anche della pratica liberale. Il primo è di Ludwig von Mises, L'azione umana. Il secondo è di Giovanni Paladino, Governare bene sarà possibile. È un libro che parla soprattutto dell'esperienza di Luigi Sturzo. Ma iniziamo con Lorenzo Infantino. Buonasera Lorenzo Infantino. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Lorenzo Infantino ha scritto la prefazione ed ha curato la nuova edizione italiana del libro L'azione umana di Ludwig von Mises, Trattato di economia. Un libro, diciamo, importante, non solo imponente, di numerose pagine, quindi è stato un compito anche difficile curare questa edizione italiana di un libro che è un po' una pietra miliare nella storia del pensiero liberale. È così, Lorenzo Infantino? Sì, Mises è stato un personaggio molto importante nella cultura liberale del Novecento e questo suo libro è il punto di arrivo di una riflessione che è durata alcuni decenni. Mises ha avuto una lunga esperienza alle spalle, ha avuto un lungo apprendistato alle spalle prima di scrivere questo libro. Egli nasce culturalmente nella Grande Vienna e discende da uomini come Karl Menger, che è stato il fondatore della scuola austriaca di economia, e suo maestro in particolare è stato Eugen von Benbavark, un altro grande esponente della scuola austriaca di economia, che è stato anche molte ministro delle finanze sotto l'impero austro-ungarico. Ecco, questo libro è un libro che Mises ha scritto dopo la guerra, nel 49, però è un libro che mantiene molto la sua attualità. Sì, questo è un libro che in verità lui ha scritto dapprima in tedesco, quando si trovava, lasciata Vienna, si trovava a Ginevra, ma poi a causa del nazismo fu costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti d'America, dove riscrisse l'opera. E noi adesso presentiamo al lettore italiano la terza edizione che egli stesso a suo tempo ha curato, e quindi le sue idee ultime, diciamo, ciò che lui ha poi alla fine della sua vita ha compiutamente portato a maturazione. Ed è un libro attuale, benché sia passato tanto tempo dalla sua pubblicazione, perché oltre a fare i conti con argomenti che poi la cultura ha assorbito nel frattempo, come la critica alla economia di piano e ad altri problemi di questo tipo, connessi poi con la nascita dei sistemi totalitari, Mises offre in questo libro una severa critica, un attento esame alla questione dell'interventismo statale nell'economia. E da liberale quale lui è sempre stato, Mises il principale sostenitore della libertà individuale di scelta per oltre 50 anni nel Novecento, e pone sempre in evidenza la necessità di puntare a una società in cui il potere pubblico abbia dei limiti, in cui vengano posti dei freni, delle limitazioni all'intervento della mano pubblica nella vita dei cittadini e nella vita economica, ovviamente. E beh, il titolo dice tutto: l'azione umana è l'azione delle persone, l'azione di ogni singola persona che messa insieme compongono appunto l'azione sociale, che è un'azione poi dinamica di un elemento come quello economico che si muove verso una crescita sociale, una crescita economica. Quindi è questo l'obiettivo di fondo di Mises. A differenza perché la scuola austriaca viene annoverata nella tradizione neoclassica, ma la posizione della scuola austriaca è a parte, nel senso che già con gli scritti di Menger e nei rapporti che Menger ha intrattenuto con Walras è stato subito chiaro che la scuola austriaca puntava a spiegare il processo economico e non è, quindi ha rifiutato l'idea di equilibrio su cui la scuola di Losanna ha lavorato poi. È una posizione che è stata poi ereditata dal nostro Vilfredo Pareto. Quindi la scuola austriaca si preoccupa di spiegare il processo sociale, quindi rifiuta l'idea dell'equilibrio. L'equilibrio può essere un concetto, uno strumento di analisi, ma nella vita di tutti i giorni gli individui agiscono perché sono in una posizione di disequilibrio e l'azione è economica perché i fini, che siano ideali o siano materiali, e si possono raggiungere solo di risorse, quindi l'azione ha sempre una sua dimensione economica. Ecco, c'è anche un elemento importante, mi sembra, per concludere, Infantino, il fatto che Mises paragona appunto l'economia di mercato alla democrazia, dice ogni scelta dell'economia di mercato è come un voto nella democrazia, quindi questa unione tra una vera economia di mercato e una democrazia può veramente far progredire la società. Sì, ovviamente gli austriaci pongono l'accento sul processo sociale, e il processo sociale non può che essere democratico. Come esiste la democrazia in politica, esiste il mercato in economia, e ogni cittadino ovviamente concorre attraverso le sue scelte poi ai risultati del processo stesso. Quindi il processo non è qualcosa di reificato e di estraneo agli individui, ma sono gli individui attraverso le loro scelte che pongono in essere il processo economico. Quindi voglio dire, un libro molto interessante che getta luce su tanti fenomeni che apparentemente ci sembrano oscuri, ma che possono essere spiegati proprio attraverso l'azione dei singoli individui. Grazie e complimenti a Lorenzo Infantino per aver curato appunto questa edizione italiana dell'Azione Umana di Ludwig von Mises, edita appunto da Rubettino. Sono quasi 1000 pagine per 48 euro. E dopo aver parlato con Lorenzo Infantino del libro L'Azione Umana di von Mises, parliamo con Giovanni Paladino. Buonasera Paladino. Buonasera. Giovanni Paladino ha operato per 30 anni nel mondo finanziario e previdenziale, figlio di Giuseppe, esecutore testamentario di Don Sturzo, e proprio a Don Sturzo ha dedicato questo libro, Governare bene sarà possibile, edito da Rubettino. Come passare dal populismo al popolarismo? Ecco, si parla molto di populismo in questo periodo. Don Sturzo è una figura che ha fondato il Partito Popolare, che ci richiama appunto alle idee liberali molto concrete. Perché è attuale, Paladino, l'esperienza di Don Sturzo? Ma è molto attuale, perché lui ha messo come pietra d'angolo della sua attività politica due grandi qualità. Una ovviamente è l'onestà e l'altra è la competenza. Lui diceva: se una persona è onesta in politica ma poi è incompetente, certo, L'onestà non serve a nulla. Oggi abbiamo i grillini che parlano tanto di onestà, e poi bisogna vedere se sono anche competenti, io me lo auguro, ma ho i miei dubbi. Comunque Sturzo è stato un grande antesignano, diciamo, della politica economica, della economia sociale di mercato, cioè lui era un grande sostenitore di questa politica che metteva al centro l'impresa e il lavoratore, che non dovevano mai essere in conflitto ma in stretta alleanza. In questo si rifà a Leone XIII, che nel 1891 con la Rerum Novarum risponde praticamente a Carlo Marx, che sosteneva la guerra tra capitale e lavoro fino ad avere lo Stato come unico factotum, come unico imprenditore e così via. Sturzo reagisce, educato da Leone XIII, a questa impostazione, e quando diventa sindaco di Caltagirone per ben 15 anni, dal 1905 al 1920, applica queste teorie, e per la prima volta il mondo politico vede un sacerdote che si impegna in prima persona a guidare un'amministrazione comunale con criteri veramente liberali, non quelli di Giolitti, il cui liberalismo era un liberalismo ristretto, quello del laissez-faire, laissez-passer, cioè un liberismo abbastanza selvaggio. E lui sostiene invece che la libertà è importantissima, e nel gestire la cosa pubblica bisogna dare anche al privato massima autonomia e spinta all'iniziativa privata. Quindi lui, come gestore pubblico, si allea con il privato e cerca di non creare un dissidio, e soprattutto riforma l'amministrazione di Caltagirone sotto il profilo fiscale, perché incomincia a far capire che il denaro pubblico è più sacro di quello privato e bisogna gestirlo con grande competenza e ovviamente onestà. Ecco, questo è vero appunto in un piccolo comune, può essere vero in un piccolo comune, è più difficile a livello di politica generale, è più difficile in un sistema come l'attuale. C'è un capitolo di questo libro in cui si dice il popolarismo va globalizzato. Può essere il popolarismo, cioè questa economia sociale di mercato, questa attenzione al bene comune, questo rispetto per la persona, per le libertà individuali, anche un modo di affrontare l'economia globale, l'economia attuale? Ma nel modo più assoluto, guardi, oggi l'economia reale va male perché sta prevalendo ormai da diversi anni l'economia della finanza speculativa. Sturzo, sin dagli anni 30, sosteneva che il capitalismo o è a favore dell'impresa, dell'economia reale, o altrimenti non è capitalismo, perché se è la carta della finanza a prevalere, la carta della speculazione, si distrugge l'economia reale invece di promuoverla. Quindi oggi il problema della globalizzazione è anche questa, che stiamo globalizzando la carta e quindi la voglia di speculare. Oggi abbiamo addirittura il flash trading. Cosa vuol dire flash trading? Vuol dire che in borsa si fanno transazioni nello spazio minore di un secondo, cioè in un secondo si fanno molte transazioni di entrata e di uscita grazie alla tecnologia, diciamo, diabolica che abbiamo creato. Certo. E invece di sostenere le imprese stiamo sostenendo la voglia di fare soldi in pochi secondi. Ecco, in questo libro ci sono anche alcune esperienze di imprese che stanno tentando di mettere a frutto, di mettere in pratica appunto l'esperienza di Don Sturzo da una parte, ma anche di Adriano Olivetti. Si cita appunto Adriano Olivetti che volle creare un'impresa di tipo nuovo al di là del comunismo e del capitalismo. Quindi qualcosa è possibile fare anche concretamente, Paladino? A Cipicchia io faccio il caso di 3 imprenditori forse poco conosciuti, forse tranne Cucinelli che ormai è molto conosciuto, ma poi parlo anche di Bracalente che nessuno sa chi è, ma quando parli di Nero Giardini, certo, ecco, dietro c'è Bracalente che è un grande imprenditore marchigiano, e Loccioni, cioè 3 imprenditori che hanno capito come si governa l'impresa, come si governa con criteri veramente moderni da economia sociale di mercato e con una grande alleanza con il lavoro, con i lavoratori. Sono imprese di successo perché i lavoratori sono cointeressati al successo dell'impresa, e quindi c'è tutta un'altra, certo, mentalità, un'altra logica. Grazie mille Paladino, anche per essere entrato nella concretezza. Abbiamo iniziato questo programma parlando delle teorie economiche della scuola austriaca di economia, lo concludiamo guardando ad imprese concrete, uomini concreti, alla possibilità di fare nella realtà appunto una economia che sia capace di parlare, di guardare agli interessi diretti dell'uomo e della società. In questo programma abbiamo parlato allora del libro curato da Lorenzo Infantino, il libro di Ludwig Mise, l'azione umana, 976 pagine per 48 euro, edito da Rubettino, e con Giovanni Paladino del suo libro Governare bene sarà possibile, come passare dal populismo al popolarismo, edito sempre da Rubettino, 110 pagine per 10 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per sabato prossimo.